Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti anche oggi. A mezzogiorno facciamo il punto sul coronavirus, a cui dedicheremo la prima parte della puntata. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Marcello Tavio, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona. Professor Tavio, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professor Tavio, molta informazione e tanta confusione. Credo che sia utile anche oggi ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori di rivolgersi ai siti ufficiali, io direi certificati, professor Tavio. Penso a quello dell'OMS, Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute. Hanno proprio creato delle sezioni in cui ciascuno di noi può trovare risposta a tutte le domande. Anche voi della CIMIT vi siete attivati, non vi siete rivolti però al cittadino comune, ma agli addetti ai lavori. Avete preparato delle schede proprio per la comunità scientifica, è così? Esattamente così, proprio per non affollare inutilmente il panorama dato da appunto tutti questi siti che danno risposte al pubblico indistinto, che sono tutti qualificatissimi quelli che lei ha menzionato. Noi abbiamo pensato di tradurre, o meglio adattare, i documenti tecnici emessi a cascata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero, le Regioni, in un linguaggio tecnico ma facilmente comprensibile, che può essere utilizzato dagli addetti ai lavori ai vari livelli, dagli specialisti di malattie infettive ai medici di medicina generale, agli addetti del 118. Per quanto riguarda il pubblico indistinto, cioè le persone che ci ascoltano senza essere addetti ai lavori, può essere interessante sapere che nel nostro sito si trovano anche delle schede di autovalutazione che riguardano proprio le persone che vengono consigliate di rimanere a casa perché sono state esposte al rischio di essere infettate da questo virus, e che appunto tramite queste schede e i consigli dei sanitari che hanno dato questa disposizione possono valutare le loro condizioni ed entrare in contatto con gli addetti ai lavori al primo comparire dei sintomi per tutto quello che poi dovrebbe seguire. Parliamo di persone naturalmente che hanno soggiornato in Cina. Parliamo esattamente di queste persone perché in questo momento l'unica area a rischio è la Cina, sicuramente la regione di Hubei dove è situata Wuhan City, e per quanto riguarda il resto della Cina non abbiamo ancora certezze assolute sul grado di rischio che comporta soggiornare a Pechino piuttosto che a Hong Kong, però in questo momento vale il principio di massima cautela, per cui anche le autorità italiane hanno bloccato i voli con tutta la Cina, non semplicemente con la regione di Hubei. Per cui in questo momento direi che anche se l'allarme può essere graduato, riguarda un po' tutta la Cina. Professor Tavio, in qualità di presidente della Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, sulla base di tutte le notizie, di tutti i dati a disposizione sul coronavirus, qual è il dato rassicurante che vuole sottolineare e portare alla nostra attenzione, e qual è invece quello che può generare preoccupazione? Dunque, direi che fino a questo momento il dato rassicurante è quello della trasmissione da persona che si è infettata e che rimane costantemente asintomatica, ovvero la persona che avrebbe acquisito il virus ma non sviluppa mai in nessun momento alcun sintomo di malattia. I dati che abbiamo a disposizione fino a questo momento ci permettono di escludere questa come una via importante di propagazione dell'epidemia. Questo è un dato in base al quale possiamo ancora rassicurare la popolazione, perché non ci sono sufficienti evidenze per cambiare questa opinione. Ecco, questo apro una piccola parentesi prima che lei, professore, passi invece al dato che può generare un po' di preoccupazione, almeno a livello della comunità scientifica, e riguarda appunto il cittadino italiano che per primo è risultato positivo al test, ricoverato allo Spallanzani, era rientrato dalla Cina era la Cecchignola nel sotto osservazione con gli altri connazionali, e le prime notizie davano la positività al test in assenza di sintomi. Poi invece le agenzie hanno battuto che in verità il ragazzo, perché si tratta di un giovane uomo, presentava qualche sintomo leggero, un po' di febbre e un po' di congiuntivite. Si conferma che la maggioranza assoluta delle persone che possono che risultano positive al test e che quindi possono trasmettere la malattia sono sintomatiche. In effetti la differenza, non c'è una vera differenza tra questo ragazzo italiano e i due coniugi cinesi, perché tutte queste persone hanno importato in Italia il virus, si sono infettate là e si sono ammalate qua, ecco. Però il virus lo hanno importato, cioè nel nostro paese non c'è alcuna evidenza di una trasmissione secondaria, ovvero autoctona, ovvero tra persone che non sono state in contatto con loro né si sono recate in zone a rischio. Questo sarebbe un cambio di livello dell'emergenza che sicuramente sarebbe preoccupante, però ripeto, al momento nessuna evidenza di trasmissione secondaria. E al momento per gli italiani che si trovano alla Cecchignola riparte la quarantena. Sì, certamente. Allora, la quarantena è riservata alle persone che non hanno sintomi, ma che sono state esposte al rischio di acquisire l'infezione e che devono restare in osservazione per un tempo che sia pari almeno alla durata dell'incubazione della malattia. Per cui, nel caso, una volta, quando non si conosceva qual era l'incubazione della peste, perché la quarantena è nata per quello, si pensava che fossero sufficienti 40 giorni e in effetti erano largamente sufficienti, perché il tempo di incubazione della peste era di 7 giorni. Adesso che abbiamo conoscenze scientifiche molto più approfondite possiamo far durare la quarantena solo il tempo necessario. Nel caso del coronavirus sono 14 giorni. Professor Tavio, veniamo invece al dato che può destare preoccupazione, che a lei come presidente della CIMIT desta preoccupazione. Dunque, in questo momento direi che c'è un dato che necessita di essere ancora interpretato con la massima cautela, ed è quello del tasso di letalità. Perché stando ai dati riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi forniti ad essa dalle autorità cinesi, i casi accertati sono circa 30.000, la mortalità è circa di 600 persone, ha colpito, sono 600 persone sono decedute, quindi siamo ancora intorno a quel 2% che era stato dichiarato nei primi tempi dell'epidemia. Abbiamo due scenari davanti: o in realtà i casi sono molto più numerosi, cioè le persone che si sono infettate sono per esempio 10 volte più numerose, il che porterebbe la mortalità allo 0,2%, oppure effettivamente si conferma questo tasso di letalità. Questa sarebbe una cosa che ci preoccuperebbe molto. Io ritengo che sia molto più probabile che il dato si abbassi, almeno di uno zero, che quindi le persone infettate siano molte di più. Questa è una buona notizia per la mortalità, ma non è una buona notizia per il livello di diffusione dell'epidemia, perché vorrebbe dire che le persone non sono 30.000 ma 300.000. Quindi ecco un tipico caso in cui abbiamo un dato che dobbiamo separare accuratamente dal commento. Qui c'è un tecnico, che sono io, che ha fatto un commento, e c'è un dato che è invece quello fornito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bisogna sempre, anche noi professionisti, dobbiamo sempre fare atto di umiltà e dire: attenzione, il dato è questo, io vi do un'interpretazione, proprio perché le persone devono abituarsi sempre, anche come loro abitudine, a valutare i dati e eventualmente commentarli e interpretarli, ma tenere sempre presenti quelli che sono i dati disponibili. Professor Tavio, prima di salutarla, stanno andando a Aruba le mascherine, ma non sarebbe meglio invece che indossare la mascherina di lavarsi le manine? È la cosa peggiore che possono fare, perché in realtà in questo caso la mascherina per una persona sana è una armatura bucata, dove il buco è dato proprio dalle mani. Molto meglio non usare la mascherina e avere una scrupolosa igiene delle mani e una scrupolosa protezione delle porte d'ingresso del virus, che sono tre fondamentalmente: bocca, naso, occhi. Grazie professor Tavio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi. E noi facciamo una pausa e subito dopo riprendiamo, cambiamo decisamente argomento. Vi aspetto. Obiettivo Salute Weekend. Eccoci tornati insieme, come vi ho anticipato voltiamo decisamente pagina, lasciamo il coronavirus e passo subito a presentarvi i prossimi due ospiti. Saluto e ringrazio Alberto Fontana, presidente dei centri clinici Nemo. Ciao Alberto. Buongiorno, ciao. E buon sabato a Marco Rasconi, che è presidente UIL DM. Ciao Marco. Ciao, buon sabato. Abbiamo anche dedicato una puntata con questa coppia di amici e ho pensato di rinvitarla al sabato. Al sabato è una giornata particolare in cui ciascuno di noi si occupa di tutte quelle faccende che non è riuscito a svolgere durante la settimana. Possiamo dire che è una giornata in cui tocchiamo con mano la qualità del nostro tempo libero, capire quanto e perché la normale quotidianità, quella routine che a volte ci sta stretti, sia un fattore di salute e di benessere per le persone con disabilità. Ma questa è solo una delle ragioni per cui ho invitato qui Alberto e Marco. Ce ne sono ben altre, sono 12 esattamente, le sentiamo, ma mi raccomando, queste sono 12, ce ne sono molte altre, per cui l'invito a voi che ci state ascoltando è di postarle sui nostri social. Andiamo. Se per strada incontri una persona in carrozzina che ti sembra in difficoltà, non avere paura ad avvicinarti per chiedere se ha bisogno di aiuto. Potrebbe essere una buona occasione per fare due chiacchiere. Marco. Quando organizzate la gita di classe, una festa o una pizzata, voglio poter partecipare anche io. Anna. Se non ci conosciamo, quando mi incontri per strada, non accarezzarmi. Mario. Il mio cane guida è i miei occhi. Quando mi guida per strada sta svolgendo un compito delicato e deve prestare attenzione a tanti stimoli diversi. Per favore, non distrarlo e non accarezzarlo. Francesca. Quando aspetti il treno o la metropolitana, non lasciare pacchi o valigie sui percorsi guidati per le persone cieche. Rischiamo di inciampare e cadere. Sergio. Al ristorante, chiedi prima a me e non al mio accompagnatore cosa voglio mangiare. Matteo. Non parcheggiare nei posti auto riservati alle persone con disabilità. Nemmeno il sabato sera e nemmeno di domenica. Anche io esco per bermi una birra e vado a fare shopping con le mie amiche. Alessandra. Nessuno è troppo grave per non poter fare qualcosa di bello insieme. Giovanni. La bella ragazza che spinge la mia carrozzina? No, non è la mia badante. È la mia fidanzata. Franco. Se mi dici qualcosa e io non ti rispondo, non sono maleducato. Sono sordo. Cerchiamo di capire assieme come poter comunicare serenamente. Gabriele. Se non ti capisco quando mi dici una cosa, non innervosirti. Prova a rispiegare con parole più semplici. Lucia. Quando parcheggi la bicicletta o lo scooter, non lasciarli in mezzo al marciapiede. Potresti creare un ostacolo pericoloso per le persone con disabilità visiva e ostacolare chi si sposta in carrozzina, ma anche una mamma con il passeggino. Roberto. Storie di ordinaria quotidianità. Il decalogo che avete appena sentito è stato pubblicato da LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità, in occasione della giornata per i diritti delle persone con disabilità che si è celebrata il 3 dicembre scorso. E noi oggi vogliamo proprio parlare di quotidianità con Alberto Fontana, con Marco Rasconi. Storie di ordinaria quotidianità, Alberto, che sono quelle storie che spesso allontanano la persona con disabilità e la fanno sentire ai margini, e quindi la fanno sentire malato e non cittadino, cioè persona sana che ha il diritto, e io metterei anche il piacere, di vivere una vita assolutamente normale. Alberto. Esatto, è quello che abbiamo raccolto tra gli associati, chiedendogli appunto un decalogo di quello che poteva per certi versi creare una barriera. Proprio perché, come in questo sabato pomeriggio, che per noi diventa straordinario perché siamo in radio anziché immersi nella routine appunto del sabato, descrivere quello che ci piace fare, quello che può aiutarci a farci sentire questa giornata come quella per qualsiasi altra persona. Perciò le abbiamo anche con spirito un po' cercato di raccontare, non per educare, ma anzi per dire: guardate che vogliamo esserci anche noi, vogliamo essere protagonisti, vogliamo vivere tutto quello che ci permette di dire che la nostra qualità della vita è bella. Marco, spesso si racconta la normalità della disabilità attraverso lo straordinario, invece nella puntata di oggi vogliamo riprendere quello che è anche e soprattutto il vostro impegno, e cioè di stressare quanto la normalità, la quotidianità, l'inserimento siano fondamentali per la salute e il benessere della persona con disabilità e di tutti noi. Marco. Ma infatti è proprio quello il concetto, le persone disabili o con disabilità, come diciamo, perché poi a noi i termini piacciono per raccontarci, ma in realtà vogliamo essere chiamati semplicemente per nome. Infatti li abbiamo firmati con i nostri nomi, questo decalogo. L'obiettivo è esattamente quello di far sentire le persone esattamente come tutte le altre, cioè non dobbiamo essere straordinari per sconfiggere la disabilità, anzi è esattamente il contrario, dobbiamo essere ordinari, dobbiamo riuscire a fare la spesa, dobbiamo riuscire a divertirci, dobbiamo riuscire ad abbattere quelle barriere che fanno sì che noi ci sentiamo diversi, in realtà non lo siamo. Non siete malati, ad esempio, Alberto? No, non ci sentiamo malati. La malattia è una cosa diversa da vivere la disabilità, perché in un contesto dove non ci sono barriere culturali o architettoniche, ad esempio, noi possiamo e dobbiamo e vogliamo considerarci una risorsa per il nostro paese. E per far questo dobbiamo anche noi spogliarci da quell'idea di vivere magari una condizione di patologia neuromuscolare come quella mia e di Marco, da una condizione di cittadino. Mi aiutate a proporre una definizione di salute che includa anche le persone con disabilità? Secondo me salute è stare bene con se stessi. E allora per stare bene con noi stessi dobbiamo poter essere liberi di fare quello che possiamo, e allora abbiamo tutti gli strumenti anche se abbiamo una disabilità. Per te, Alberto? Io aggiungerei che è la libertà di poter decidere nella quotidianità di stare con gli altri e di stare insieme agli altri in un modo semplice, immediato, e perciò la mattina svegliarsi e decidere di andare in centro senza il bisogno di avere qualcuno che ti porta, perciò di prendere i mezzi, di diventare medico, perciò di poter andare a scuola, di poter andare all'università, di potermi sentire realmente alunno della mia scuola. Marco, in una città come Milano queste barriere sembrano, nelle grandi città c'è attenzione, ma l'Italia è lunga e stretta, le storie sono tante. Io credo che sia necessario anche lavorare sulla persona con disabilità, ma anche sulla persona che può diventare una persona con disabilità a causa di una malattia, di un incidente. Sono due mondi differenti su cui è bene investire. Noi dobbiamo raccontare che nonostante la disabilità si può fare, indipendentemente dal tipo di disabilità, indipendentemente dall'età, lo dobbiamo raccontare alla persona e alla famiglia che si prende cura della persona, ma non solo. Dobbiamo raccontarlo a tutti, uno perché la disabilità può colpire chiunque, e due perché chiunque può incontrare la disabilità e può aiutarla. Allora, se io compro un bar metto uno scivolo, allora permetto a Marco di entrare in quel bar, incontrare persone e magari Marco incontra una persona normodotata che però conosce una persona o una famiglia con disabilità e la può aiutare, oppure semplicemente Marco incontra una persona appassionata come lui di sport e vanno insieme a vedere una partita di basket o centinaia di altre cose. Noi dobbiamo favorire l'incontro e dobbiamo farlo dicendo a tutti che le persone con disabilità possono fare, vogliono fare e, aggiungo, devono fare, perché anche noi vogliamo impegnarci. E se lo consideriamo un investimento per il futuro di chi oggi magari non ha incontrato la disabilità, diventa un patrimonio enorme, prima di tutto perché nel momento in cui, come ricordavi tu, una persona che non ha problemi magari si trova di fronte alla malattia, ha già degli ambiti nel quale non si sente più escluso, solo, emarginato, proprio perché comprende attraverso il vissuto della malattia che tutte le barriere possono essere superate. Perciò, per certi versi, è culturalmente importante abbattere quella barriera ed è un investimento per tutti e soprattutto per chi, ahimè, a volte si trova di fronte alla malattia. Ma è molto più bello regalare a tutti una società che accoglie tutti, in modo che tutti sappiano che se hanno un problema hanno una società che li accoglie nonostante il problema. Quindi è un regalo che facciamo a tutti. C'è però da parte della società una sorta di imbarazzo ad incontrare la persona con disabilità. Si ha paura, ad esempio, di fare delle gaffe, a dire ad una persona non vedente: dai, ci vediamo, oppure a dire ad Alberto, dai, fai un salto qui su, che è un sacco di tempo che non ci vediamo. Bisogna lavorare anche in questa direzione. Sì, c'è necessità di una sorta di galateo della... Sì, però anche della capacità di vivere con leggerezza queste cose, perché nel momento in cui quella possibile gaffe diventa appunto una possibilità di connessione, di dialogo tra le persone, tutto diventa un sorriso e c'è necessità di affrontare anche il tema che molto spesso si pensa complesso come la disabilità con il sorriso. Non può essere sempre accompagnata da quella pesantezza che sta all'interno delle difficoltà da affrontare, perciò della malattia. No, vogliamo essere tutti malato un po' più leggeri. Malato a chi? Ma malato a chi, Marco? Assolutamente, ma il tema è proprio quello, nel senso che di fronte alla diversità siamo tutti un po' impacciati. Insegniamo che essere impacciati è normale e allora è anche divertente e ci permette di affrontare con un sorriso quella diversità, che poi sia la disabilità o sia un altro tipo di diversità, a noi non interessa. Un mondo che include tutti, un mondo che sorride a tutti, è un mondo più bello per tutti. Io lo chiedo a Marco e lo chiedo ad Alberto. Vorrei che ci aiutaste a capire quanto è importante il ruolo svolto dalle associazioni per le famiglie, per le persone con disabilità, ma anche come deve essere utilizzata l'associazione. Io spesso dico alle famiglie: se lo faccio io lo può fare anche tuo figlio. E quindi possiamo farlo un po' tutti, bisogna solo trovare lo strumento giusto. È un po' come costruire una macchina con Lego. Devi trovare i pezzi giusti, ma ognuno può costruire la sua. Le associazioni sono uno strumento in cui, o meglio, sono un luogo dove entrare e trovare una serie di attrezzi per superare un po' di problemi. Alberto, quindi adeguatamente attrezzati si affronta la vita. Sì, è attraverso la narrativa, attraverso il racconto, avere la possibilità di dire che è possibile per Marco essere fidanzato, laureato, vivere da solo. Questo deve essere un esempio per le famiglie che ancora oggi nel nostro paese si fanno carico dell'assistenza di chi vive una disabilità grave, perché io e Marco abbiamo la fortuna di raccontare che è possibile, però per molti ancora oggi questo non è possibile per tutti. Oggi siamo straordinari a livello numerico, nel senso che siamo ancora troppo poche le persone con disabilità che fanno tutto come fanno gli altri. Noi vogliamo diventare banali, cioè vogliamo che la gente non ci veda più come qualcosa di straordinario, perché vuol dire che l'abbiamo reso disponibile a tutti. Vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento come sempre domani. Tutti pronti, mi raccomando, a sedersi alla tavola della bufala in tavola. Mangeremo, canteremo, staremo bene insieme, ci divertiremo. Non mancate, vi aspetto. Una buona giornata da Nicoletta.